acqua di Briaghi. Ma che tu non ricordavo che mi stavi a usci, scura? No, Giovanni, ma che fai che c'hai a usci? Eh? Cosa c'è in campagna a usci, per caso? No. Ero tutto il giorno in casa, ma mi sono accorto che era quasi la una. Puoi immaginare, perché sono rientrato tardi stamattina e... Mi ha acceso adesso? Mi ha acceso adesso, perché? Tu hai sempre aumentato mia notte d'oggi, vero? Eia! E no, perché mi ricordavo che a volte, quando avete la voce, non ho messo la voce. C'è visto una volta, ho visto... che si mancasse di cose, di... Io viaggiamo così, ma è un bravo ragazzo, di coso, ma accidenti, ho ti chiamava chissà, ma tu già hai capito, no? Sì, ok, allora ti ho messo, quello che ho fatto è, niente di qui, non ho capito, ho sottopassato, perché mi ho fatto il corso, Ma come esiste Gisù? Dai, vivo io! Ah, vivo io! Ma io ti dico, vivo ancora! Buono, per il gioco che io, Giovanni! Non ho più che vivo, è il parito, è da parecchio, già quasi un anno è che è deceduto. Ah, ma è già bella, lo ricordo sempre, c'è sempre veramente quando non abbiamo politizzato un muro, c'è che vuoi adesso lo dico, attenzione, c'è Maria, oh c'è Maria, vai qua, no, era una brava persona, io l'ho saputo dopo tanto, l'ho saputo dopo un paio di mesi, l'ho saputo, ho trovato la figlia per caso in Piazza dei Segni e mi ha detto che è fatto, mi ha detto, io non mi immaginavo, e gli aveva detto alla figlia a telefonarmi, a avvisarlo che era ricoverato, ma sai come sono i giovani, se ne sono dimenticati e me l'ha detto dopo due mesi che lui era già partito. Non mi spiace però, Manuel, le dai? Comunque era una brava persona, purtroppo. Grandetto era un po' grandetto e che era un po' malmesso. Quando si era andata anche la moglie, allora lui si era preso a cuore e andava, più si aggravava, capito? Ho capito, ma Manuela? Manuela? Che aveva 87, mi pare, insieme che ne aveva. Ho capito. Vabbè, se aveva il nuovo lui, ci dai. Era grandetto, infatti, ma si era preso a cuore da quando... se l'era data la moglie, capito? Poi era deceduta, per cui se l'ha presa a cuore, allora anche lui si ha messo appresso, là. Già, capito. Vabbè, Giovanni, so cosa succede, ma purtroppo. Va bene. Oh, Giovanni, ti saluto che mi mamma mi ha fatto un po' per il video. Sentiamo dopo, dai, se coincide, ok? D'accordo, ciao, vi appassentiamo, buon proseguimento di serata. E ancora lui, manca di dare, lasciamo la cosa saltare. Ciao Mario. Che chiama? Mario Soco. Mario. Ehi, mi sto consente da mangiare, sta gentile, appena. Mario, buonasera. Mi ha acceso un po' calzi. Ho spazzolato, ho sentito a Giampaolo. È un po' di propagazione che c'era, questi spagnoli, lo coprivano, lo coprivano anche a me. E allora mi due chiacchierate e così via. Ha chiuso adesso il Giappao. Okay. Papà. Allora, ha chiuso Mario. Ecco, chi vedeva che doveva fare cosa? Beh, Mario, oh, che buonasera, mi hai sentito, E se la va, come se la va? Insomma, a me, da un angolo all'altro si rende la carriola, tutto. Adesso ho finito di fare carica. No, sono già coccato, sono stati di sole, sta la coppia, ha già allungato la mano, ha già acceso. Sta già inteso lo zico, ha già fatto spassolata, sta già avuto altro frattempo. Ma Mario, era annoiato, un gatto, ivi. A te ci sono tutti i giochetti a tombola, a me mi annoiate alla tombola, non mi piace giocare. E per cui allora me li sono qui tra dai occhi, capito? Allora sono tutti i giochetti a tombola, certo. Perché a me non mi piace, per cui poi io mi sento addretto, mi hai già acceso, mi azzurami. Buonasera signori. Poi buonasera carissimo, e auguroni e buon anno a tutto il QRA. Avanti Gianmarì. E chi è che non ho sentito? Buonasera signori, ciao Gianmaria, poi non ricordo il nominativo, Sandro qui da San Giovanni. Ok, sa, buonasera. E l'altro Mario Mao, sottoscritto il barbiere di Siviglia, è rientrato, sa, auguro anche a te. Ma sono andate le feste. Ok, scusate un attimino, qua c'è un po' di stazionari, scusate un po'. Fai un comodo. Allora Mario. Ma quello non siete andati a Luca, cattina. Avete festeggiato in casa. Ci ha invitato a pranzo attore. Avevamo invitato a pranzo attore oggi. E dopo però, dopo ho mangiato, allora me ne sono entrato qua e mi sono fatto un pisolino. E poi sono entrati a andare a giocare a tombola. Tu guardate, io vengo 5 minuti, ma dopo me ne scappo di nuovo qua perché a me la tombola non mi piace. E mi piglia luci, poi ho, gatta. Quando sono venuto qua mi sono acceso la televisione mia, e stavo spazzolando e guardando la televisione, ma in cui dopo mi sono fermato qua su questo canale che ho sentito a Giappone con un'altra persona chiacchierando. E così via, Mario, ecco tutto qua. Visto, non telegiornare, io la già stava là, una battagliura di prete e di cose, di mortali e cosa di vedo. Mario, hai visto questa gente ferita dai petardi, pure i nomi mi attenzionati di Cagliari, per carità, è un macello, non scappare mai, vediamo un po' se ha bisogno di attenzionare Sandro! R. Gianmarì, sto tutto in ordine, tutto tranquillo, sta cominciando a scendere l'umidità e quindi la signora Antenna ne sta risentendo. Ok, super salutoni lì a Mario, buonasera Mario, ben ascoltato. Marì, feste, da parte mia se come giorni normali, niente di particolare. Nulla, guarda, proprio a livello aglio olio, nulla di particolare, almeno da parte mia. Niente, tutto lì. Ok. Beh, il solito, magari una giornata particolare, però per molte persone sono giornate normalissime. Ma anche noi non è che sia così. Io per esempio avrei preferito rimanere a casa e sarei stato bene ugualmente, però sa, e la famiglia, i figli, io ho venuto con noi, con dell'altro, e mi hanno convinto, siamo andati al Cerone e abbiamo passato una serata in, diversa dagli altri, con tutta la famiglia, ecco, e così via. Per cui anche per lui è così. Se per roba familiare c'è un bel momento, l'importante è che ci sia la salute e che ci sia l'appetito. Tutto lì. Avanti Mario. Alessandro, non preoccuparti, ho tutti bollendo dentro una pentola. Come viene ce la prendiamo. Interessante che ci sia la pace e l'armonia. Ok. Ok, sento delle modulazioni in sottofondo. Ok, registrato il becco. Un attimino, eh. Ok, buonasera al becco, avanti, ruota Sandro San Giovanni Modulante, poi Gio Maria Passari, penso, coordinate chat e poi Mario, avanti. Buonasera a tutti, auguri di buon anno qui stazione Bombolo. Oh, buonasera signor Bombolo, ben ascoltato. Controcambio il tutto, diciamo gli auguroni. Auguroni anche a Mario e auguroni anche a Gio Maria. L'ho controcambiato al 100%. Ok, Mario. Il discorso è questo, gli anni vanno avanti, voglia di festeggiare perché i tempi stanno cambiando, adesso non lo so, dipende magari da persona a persona, sta succedendo di tutto, c'è la paura di accendere e vedersi un po' il telegiornale per vedere quello che succede, insomma, speriamo bene, non è per fare pessimista, ma speriamo bene che il 2011 porti, diciamo, qualche miglioramento e almeno a stabilizzare un po', diciamo, la situazione, perché non è tanto delle migliori. Tutto lì. Ok, riprendi Bombolo. Chiappa. Ma speriamo bene che il 2011 sia più buono e porti un pochettino più di serenità. Mi sa che quella lì oramai si è persa da un po' di tempo. Ok. Ok, Bombolo. Lo so, però non bisogna, diciamo, partire col piede del pessimismo. Bisogna andare sempre col lato positivo. Anche se il lato positivo dura fino a un certo punto, poi logicamente la situazione in ogni famiglia è quella che è, e quando incomincia, diciamo, giorno dopo giorno ad aggravarsi per varie situazioni e poi comincia, uno non è più positivo e comincia a essere negativo, insomma non è semplice, non è così semplice. Vabbè, Giovanni, a te. Ok. Salutiamo Antonio Bombolo, sera ben risentito, agrone anche a te, a te in famiglia, così è purtroppo così, speriamo bene, dai, che sia un anno migliore. Vai Mario. Buonasera Antonio, ben sentito e auguroni a te a Correa, che okay, fa sempre piacere sentirci. E insomma la questione è questa qui, la questione che stiamo andando e peggiorando, cara miseria, hai visto in Grecia? Chiesa apostolica romana, la religione nostra, ci hanno messo, durante la messa ci hanno messo una bomba dentro, non so quanti morti, fatti, porca miseria. Ok. Ok. Mario, sei un po' bassino di modulazione, adesso non so, magari stai parlando distante, diciamo, dal mic, non lo so. Mario, purtroppo sta succedendo di tutto, le persone si stanno cambiando completamente, e questo adesso bisogna vedere se è dovuto, diciamo, alla crisi, diciamo, in tutto il mondo, se è derivato la trasformazione, diciamo, della terra, bisogna vedere che cos'è il casotto che sta succedendo. Vabbè, comunque tiriamo avanti. Ok, Bombolo. Dove sei? A Sassari? Qua, zona Lima Delta. Lima Delta, Lima Delta, precisami più bene? Di notte. Ah, ho capito, ok. Va bene, ok. Gio Maria. Gio Maria, si è sentato. E adesso come sta uscendo? Più forte? Capa Maria, adesso diciamo che sei un po', hai un po' migliorato di modulazione, dai. Un po' più comprensibile, poco fa eri proprio bassino, bassino. Eh beh, forse come stava allungando la mano, ho cercato di 1, 2, 3. Manti anche tu! Kappa, io già lo sai benissimo che qua, qua ti sento al 100% bene. No che no, non ce n'è più, mister, tutto a fondo, scala. Beh, anche a cosa mi sento bene adesso. Maria, è rientrato? Ok, però sai che se stavo guardando un'acquisizione e ho passato l'altro microfono invece prese proprio quello giusto e chiedo scusa e non ho risponderti io, ho risposto ma con microfono spento, roba da pazzi, ogni tanto mi capita queste cose, chiedo scusa. E sono vicino, sa, siamo tutti e tre uno vicino all'altro, capito? Saremo, con Mario siamo, ci allunghiamo la mano, ci tocchiamo la mano alla finestra, quanto magari, quanto sarà tu, su per giù, quanto siamo a tu? Ah, poco, un paio di palazzi, appena più giù siamo, dai, ma poca distanza, se salgo su di un piano, se dovessi abitare al secondo piano vedo l'antenna tua. Di Mario, di Maria. Sì, hai capito, sa, siamo vicini noi, per cui noi tutti a fondo scala ci arriviamo, magari da te, Mario però sta uscendo abbastanza bene pure per essere in quelle condizioni che sta uscendo. E si riesce a capire abbastanza bene, io lo sento bene, magari tu lo senti un po' più male perché sei più lontano. Adesso già mi sembra che abbia aumentato leggermente. Vai Mario, prova a vedere un po' come ti senti, Sandro. 1, 2, 3, prova. Sandro, come arrivo? Ok. No, diciamo, adesso è migliorato come modulazione. Poc'anzi, diciamo, la modulazione era bassa, magari avevi il mic, diciamo, un po' distante, quindi la modulazione, diciamo, era bassina per questo qua. Comunque, da parte mia, diciamo, siamo anche vicini, non è, diciamo, tutta questa grande distanza in cui siamo. Ascolto benissimo tutti e tre. Infatti io se salgo su sul terrazzo qui dell'abitazione ho diciamo tutto campo aperto, diciamo Sassari, in qualsiasi punto che mi giro diciamo tutto campo aperto, non ho diciamo ostacoli che mi possono impedire. L'unico ostacolo, diciamo ostacolo, è coso che a circa, saranno a circa 30-50 metri ho una linea di alta tensione che infatti dipende quando comincia l'umidità mi aumenta un po' il QRM, questo magari è derivato diciamo dalla linea elettrica e così via, poi per il resto tutto bene. Infatti oggi ne ho approfittato, ho fatto una piccola manutenzione, poi c'era un po' di stazionari e l'ho un po' revisionata, tutto a posto. E Gio Maria, senz'altro diciamo, mi ascolterai bene, dammi un controllino per vedere un po', dai. Ok, io devo essere attenuato per Mario, se no non riesco a capire niente, l'ho attenuato. Adesso l'ho tolto e arrivi 9.32, la radio è super buona, capito? Qui va abbastanza bene. Qua. Bene, io ne approfitto, adesso che ho il microfono in mano, per cui devo chiudere. Già le 8 passate, per cui devo chiudere per forza. Quindi approfitto, saluto Antonio. mi ha sentito e buon proseguimento serata ancora. Mario, Ivan e Sandro, riprendi Antonio e fai girare, io chiudo, vai, ti ascolto per il finale, io chiudo. Ciao a tutti, buona buonanotte. Salutoni Gio Maria, Gio Maria, ci risentiamo tutte le prossimine. Avanti Mario. Gio Maria, buonanotte, salutami Correa e buon festeggiamenti e tante belle cose. Avanti sa. Ok. Ok, ciao Gio Maria, ben ascoltato. Ce la risentiamo tutti alle prossime migliori occasioni. Buon tutto e buon inizio per domani. E chiudo, buonanotte, riprendi Mario. Beh, anche io adesso devo misurare, che sono diabetico, come devo misurare la glicemia, cose varie, dalle 8 passate, perché vi saluto, ciao Antonio, di nuovo a Uruni, passando anche a te, prendete buona chiacchierata, alle prossimine. Saluto di Mario. Già risentiamo tutte quante le prossimine, avanti Sandro. Bene, e ok, ciao Mario, sentiamo tutte le prossimine, ok, va bene, dai, ne approfitto anche io, Bombolo, ti saluto tutte le prossime. Ma dai, ce la risentiamo, ma che c'è anche Gatto Silvestro? Silvestro c'è o Sandro? Se c'era Silvestro? No, inizialmente quando sono entrato mi sembra avevo sentito, poi non l'ho più sentito. Pensavo che c'era lui. Ma dai, allora ti saluto, ce la risentiamo alle prossime. Ok, ciao Bombolo, alle prossime. Ciao.